wa mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Pomeriggio da Giorgio Telesforo, appuntamento quello di oggi numero 96 del nostro soundcheck prova del suono di Radio 24, che dedichiamo, come spesso facciamo il lunedì, alla storia di uno strumento musicale. Oggi lo strumento è bellissimo, forse il più completo, senz'altro il più completo, quello complementare allo studio della musica per qualsiasi musicista. Qualsiasi musicista le mani sul pianoforte prima o poi le deve mettere, e conosciamo tutti questo strumento, sappiamo com'è fatto, sappiamo che è un cordofono, sappiamo che le corde vengono percosse mediante martelletti azionati da una tastiera, sappiamo che la tastiera è composta da 88 tasti, 52 tasti di colore bianco che corrispondono al do, re, mi, fa, sol, la, si, 36 tasti di colore nero che corrispondono e individuano le note bemolli e quelle diesis. Però non tutti forse sappiamo che l'origine della parola pianoforte è proprio italiana ed è riferita alla possibilità che lo strumento offre di suonare note a volumi diversi in base al tocco, possibilità che invece era negata da strumenti precedenti come il clavicembalo e il clavicordo, che sono i progenitori del pianoforte. Infatti nel clavicembalo le corde vengono pizzicate da un plettro, invece, lo abbiamo detto, nel pianoforte le corde sono colpite da martelletti che immediatamente rimbalzano, permettendo quindi alla corda di vibrare liberamente fino al rilascio del tasto che provoca l'intervento dello smorzatore. Dunque, il primo modello di pianoforte fu messo a punto da un italiano, Bartolomeo Cristofori, padovano, che lavorava alla corte fiorentina di Cosimo III de' Medici, che a partire dal 1688 iniziò a lavorare proprio su un clavicembalo, cercando di modificarlo, cercando di dare delle possibilità dinamiche controllabili dall'esecutore, e nacque così il fortepiano, che non ebbe un grande successo in Italia, ma l'idea finì molti anni dopo in Germania, dove un costruttore di organi chiamato Gottfried Silbermann nel 1726 ricostruì una copia esatta del pianoforte di Cristofori, che sottopose al parere di un esperto, di un collaudatore, il signor Johann Sebastian Bach, che ne diede però un parere molto negativo. Allora facciamo una breve pausa, fermiamo qui la storia del pianoforte per andare a ascoltare subito il magico suono di questo strumento con due pianisti dallo stile completamente diverso. Il primo è anche un contemporaneo ancora in vita, è Alain Toussaint, musicista non molto famoso da noi ma eccellente pianista della scuola di New Orleans e soprattutto un compositore geniale che ha segnato il corso della musica della Louisiana, e qui lo ascoltiamo in una sua composizione intitolata Tipitina and Me, brano che è stato trascritto e viene studiato nelle scuole di musica negli Stati Uniti, e poi il maestro del pianoforte jazz, l'inventore della tecnica jazz come Art Tatum in un classico dal titolo Love for Sale. Oggi il soundcheck lo dedichiamo al pianoforte. stili diversi, Alain Toussaint da New Orleans con TPT nel Me e Art Tatum con un classico dal titolo Love for Sale, ripreso tra l'altro, come avrete notato, in un party privato. Questo disco è famosissimo ed è un disco molto amato dagli appassionati di jazz, anche perché è stato registrato nel 1956 proprio in un party privato con degli amici, un anno prima della scomparsa del grande innovatore dello stile pianistico del jazz Art Tatum, morto nel 1957. Breve pausa e torniamo a raccontare il pianoforte qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Una puntata del Soundcheck dedicata al pianoforte, come non suonare Oscar Peterson, il grande maestro del pianoforte jazz, qui recuperato da un album pop del signor Peterson, album intitolato Motions and Emotions del 1969, dove fra le varie composizioni si diverte anche in questa proposta di uno dei successi di Lennon e McCartney, ovvero Eleanor Rigby. Oscar Peterson al Soundcheck in una puntata dedicata al pianoforte. Abbiamo raccontato in parte la storia del pianoforte, che ha avuto fra i collaudatori dei progenitori del pianoforte, ovvero il fortepiano, anche Johann Sebastian Bach, che suonò questo modello costruito da Gottfried Silbermann nel 1726 e ne diede un parere molto negativo. Il pianoforte ha un'evoluzione, da Silbermann passa nelle mani di André Stein, che perfezionò in un proprio stabilimento lo strumento, e nel 1777 ricevette la visita di un altro musicista trattino collaudatore eccellente, ovvero Wolfgang Amadeus Mozart, il quale, al contrario di Sebastian Bach, fu molto entusiasta delle infinite possibilità espressive dello strumento. Quindi i figli del signor Stein si trasferirono a Vienna, crearono una loro fabbrica di fortepiani, strumento che poi ebbe un'evoluzione. Ci furono costruttori francesi molto importanti nell'Ottocento come Erard e Pleyel, per poi arrivare all'inizio del XX secolo e con una casa di New York chiamata Steinway & Sons arriviamo proprio al pianoforte così come lo conosciamo, ovvero uno strumento con un telaio in ghisa, e la Steinway & Sons divenne il maggior produttore mondiale di pianoforti di qualità, anche se oggi un pianoforte eccellente è costruito in Italia dalla Fazioli, è uno strumento costoso ma favoloso, e viene suonato dai migliori pianisti del mondo, fra questi anche il nostro italiano Stefano Bollani. Sappiamo che il pianoforte è costituito da 6 parti, ovvero la cassa con la tavola armonica, la struttura portante, il rivestimento esterno, la tastiera, la meccanica, la cordiera, i pedali, e naturalmente è uno strumento molto sensibile. I pianisti sanno bene che ci sono vari accorgimenti per tenere in forma un bel pianoforte. Sì, perché la percentuale di umidità è uno dei fattori più critici per il pianoforte, così come una grande influenza esercitata anche dalla temperatura dell'ambiente, che deve stare fra i 15 e i 19 gradi. Bisogna evitare che lo strumento si trovi vicino a fonti di calore, o anche la vicinanza ad una parete esposta all'esterno dell'abitazione può causare danni. Non bisogna tenerlo nelle cantine o nelle mansarde perché sono umide. Non bisognerebbe appoggiare nulla sul mobile del pianoforte, fascicoli di musica, vasi, posaceneri, bottiglie, bicchieri, perché comunque si comprometterebbe la purezza e l'intensità del suono. Comunque uno strumento delicato che va curato ed amato, e sicuramente un signore che cura bene il suo pianoforte è stato Ramsey Lewis, ancora oggi musicista che va in tournée, lo abbiamo visto in tournée l'estate scorsa con Didi Bridgewater, qui in un classico del suo repertorio preso dal vivo, The In Crowd di Bill Page per Ramsey Lewis al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E oggi stiamo raccontando la storia del pianoforte, strumento che ha avuto il fortepiano e il clavicembalo fra i progenitori e ha avuto anche dei collaudatori eccellenti come Johann Sebastian Bach, che non rimase molto colpito dallo strumento, al contrario di Wolfgang Amadeus Mozart, che rimase impressionato dalle capacità espressive di uno strumento fondamentale, uno dei più completi e ricchi grazie proprio alla sua capacità e estensione in ambito sia armonico che melodico, fondamentale nella comprensione della teoria musicale e nell'arrangiamento per i musicisti e i compositori di tutti gli stili. Ecco, il ruolo del pianoforte nel contesto dell'accompagnamento di un gruppo è gradualmente cambiato, passando dal compito di tenere il tempo eseguendo figure ritmiche ripetitive con la mano sinistra a uno più flessibile, dove il pianista è libero di scegliere come interagire con il solista usando frammenti armonici o melodici sia brevi che sostenuti. Il pianoforte è sempre stato uno strumento fondamentale nella musica jazz, dallo stile ragtime in poi, e quando il genere cominciò a progredire questo strumento fu inserito proprio in quella che è nota come la sezione ritmica di un gruppo jazz, dove il pianista suonava una parte di accompagnamento composta principalmente di accordi, in modo che gli altri strumentisti potessero così liberare i loro assoli. Fino a quando il pianoforte jazz si è evoluto, non limitandosi più a suonare solo la melodia principale o a fare da accompagnamento agli altri, ma anche la possibilità di dare sostegno all'interpretazione con la possibilità di fare gli assoli. E fra i grandi interpreti del pianoforte jazz contemporaneo sicuramente c'è Herbie Hancock, che si è tolto lo sfizio di lavorare giovanissimo con Miles Davis, che ha lavorato tanti anni per la Blue Note Records, che ha composto musica che è diventata importante per tutti i musicisti della nuova generazione, dando anche un'evoluzione stilistica al suono del jazz con il periodo jazz rock e l'utilizzo quindi anche di strumenti elettronici, e musicista che è ancora in attività e che continua a togliersi lo sfizio di lavorare anche con le pop star, e qui infatti lo ascoltiamo insieme a John Mayer, ottimo chitarrista, ottimo bluesman. Il brano si intitola Stitched Up, dove il pianoforte di Herbie Hancock è comunque in evidenza con la sua classe e il suo talento qui al Soundcheck di Radio 24. Termina qui l'appuntamento del Soundcheck dedicato al pianoforte, ma abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e vorrei presentarvi anche il sound così particolare di un musicista contemporaneo purtroppo scomparso pochi anni fa. Si chiamava Esbjörn Svensson, qui con il suo trio una composizione molto interessante dove il pianoforte viene utilizzato ritmicamente in maniera ipnotica e anche con un sound molto particolare. Il brano si intitola Gold Rap e con Esbjörn Svensson Trio io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, ci risentiamo domani alla solita ora. Vi ricordo che l'indirizzo di posta elettronica è soundcheck@radio24.it, quindi grazie a tutti, buon pomeriggio e buona musica da Giorgio Telesforo. Check. Il suono della musica.